L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta in cui affronteremo temi fondamentali per la tutela dell'ambiente. Parleremo molto di rifiuti, in particolare di apparecchi elettrici ed elettronici e di rifiuti organici. Sono due campi, tra virgolette, nuovi, in cui la crescita della raccolta è vigorosa, ma in cui ancora c'è molto da fare, soprattutto nelle nostre case, ma lo scopriremo tra non molto. E poi parliamo anche di acqua, anzi, partiamo proprio dall'acqua. Sono frammenti del concerto di Yasin Bey, noto come Mos Def, uno dei protagonisti dell'hip hop americano, sbarcato a Bari con il suo farewell tour, tour d'addio alla carriera musicale, perché intende dedicarsi maggiormente al cinema e ad altre attività. È stato questo concerto uno di quelli che hanno animato il Festival dell'Acqua, il quarto Festival dell'Acqua, ideato e promosso da Utilitalia e da Acquedotto Pugliese la scorsa settimana. Stato delle risorse idriche del pianeta, disponibilità e accessibilità, siccità, alluvioni. Il mondo cambia e la gestione dell'acqua è fondamentale, ricorda Mauro Dascenzi, che è il vicepresidente di Utilitalia, la federazione delle aziende che si occupano di acqua, ambiente ed energia. Uno degli obiettivi che il festival si è posto era quello di porre il problema sul piano scientifico e culturale e trovare e concordare delle soluzioni. Vi sono degli impegni anche da parte delle istituzioni di legiferare in questo senso. Mai come oggi si incomincia a capire che occorre parlare anche qui di un ciclo, di una circolarità della risorsa idrica, no? Certo, e certo, come parliamo di economia circolare per tanti altri ambiti della nostra vita, possiamo parlare sicuramente di circolarità anche nel ciclo delle acque. L'Italia, se scendiamo un po' più nel particolare, sappiamo che ha delle difficoltà dovute proprio al cambiamento. Forse era adatta, era preparata a quello che avevamo fino a 10, 15, 20 anni fa, ma non è pronta al cambiamento che stiamo vivendo adesso. Su questo mi sembra ormai assodato, no? Certo, guardi, sono emblematiche per esempio le cosiddette bombe d'acqua, no? Adesso abbiamo il problema della siccità, poi abbiamo in altri casi problemi di precipitazioni talmente intense che definiamo bombe d'acqua, qualcuno dice che è errata questa definizione, in cui abbiamo delle enormi precipitazioni e le riteniamo nemiche perché effettivamente sono devastanti, hanno degli effetti devastanti. In realtà bisogna che incominciamo a cambiare mentalità, e cioè pensare che quelle bombe d'acqua tanto devastano perché il territorio non è stato protetto, perché non abbiamo per esempio una corretta regimentazione delle acque, perché non abbiamo gli sbarramenti, perché non abbiamo dighe. Bisogna dirlo chiaramente, in Italia non si può manco mettere una ventola per produrre energia elettrica perché un movimento si scatenerebbe contro. Quindi immaginiamo di dover fare delle dighe, ma è necessario fare delle dighe, è necessario fare degli invasi, perché questi fenomeni che così intenso precipitano in poche ore, creando devastazione, io vorrei dirla in modo anche un po' provocatorio, bisogna che incominciamo a pensare che non sono nostri nemici, sono nostri amici, perché ci portano l'acqua per i periodi in cui non pioverà e quindi dobbiamo trattenerla quando arriva. Poi c'è un altro elemento che è terrificante, noi perdiamo un sacco di acqua nella rete, quindi c'è la siccità e buttiamo via l'acqua, e poi ancora rischiamo qualche volta di raffreddare i forni delle industrie con l'acqua oligominerale e non riusare l'acqua industriale. Inoltre, come usiamo l'acqua potabile per lavare le macchine? Esattamente, allora bisogna rivedere questo intero ciclo. Poi bisogna sapere che vi sono situazioni, il sud dell'Italia, alcune isole, dove comunque il problema rimarrà per la morfologia del nostro paese, e ha affrontato il nostro festival in modo molto compiuto la questione per esempio della dissalazione. La dissalazione non è una bestemmia, la dissalazione è importante. Un ciclo completo dell'acqua vuol dire che quello che non fa la natura, cioè l'evaporazione e la riprecipitazione restituendomi l'acqua con la pioggia, la posso fare oggi con la tecnologia, cioè posso prendere acqua del mare, dissalarla e distribuirla. E questo avviene in altri paesi, per esempio in Israele questo è molto diffuso, in Spagna ci sono tecnologie ormai che possono e sono all'altezza delle nostre esigenze. Senta, lei mi ha nominato dei paesi che però diciamo sono amici e sono vicini, la Spagna, Israele, perché per noi non è ancora una pratica diffusa? Non è una pratica diffusa, guardi, vabbè, intanto perché noi siamo in ritardo e questo ritardo deriva da una concezione dell'acqua estremamente sbagliata. Ne sono stati emblema la campagna referendaria, il referendum che pure hanno avuto una certa utilità perché hanno messo al centro il problema dell'acqua, ma nella discussione, addirittura nel definirla sacra, in realtà si tende a nascondere il fatto che la sua sacralità deve essere coniugata con la necessità di industrializzare il ciclo, cioè di metterci risorse, di farla pagare se è necessario e farla pagare il giusto. Quindi con un'equa tariffa si può anche pensare ad investimenti innovativi in questo settore. Devo poter ricavarne le risorse per costruire questo ciclo virtuoso, cioè per rispettare l'acqua la devo un po' dissacrare. Ci sono risorse idriche da risparmiare, quindi risorse di altra natura, ma altrettanto preziose, sono quelle nascoste nei RAEE. Come sempre ricordiamo, sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. È una raccolta, quella dei rifiuti RAEE, che sta crescendo, ma non abbastanza, sottolinea Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, un consorzio nazionale per la raccolta dei RAEE. Per quanto riguarda i risultati del primo semestre 2017, il giudizio è certamente positivo, noi registriamo una crescita di oltre il 25% rispetto all'anno precedente, in particolare cresce di quasi il 28% il raggruppamento dei grandi bianchi non frigoriferi, quindi lavatrici, cottura, cappe, cresce un pochino di meno, però sempre in modo rilevante, il raggruppamento R1, che è invece quello dei frigoriferi. Quindi un giudizio sostanzialmente positivo, anche se si fa fatica occupandosi di rifiuti elettrici e elettronici a vedere il bicchiere mezzo pieno. Tendenzialmente io sono più propenso a vedere la parte vuota del bicchiere, perché non riesco a dimenticare il fatto che circa 2/3 dei rifiuti elettrici e elettronici che i cittadini italiani buttano ogni anno va perso lungo canali di cui non si riesce ad avere traccia, di cui non si riesce ad avere visibilità. Vuol dire che il sistema RAE, quello gestito dai produttori di apparecchiature elettriche elettroniche, nel suo complesso arriverà probabilmente quest'anno circa 300.000 tonnellate, ma ce ne sono almeno 500.000 che sfuggono ad ogni censimento, ad ogni appello. Allora, scusi se la interrompo, due curiosità. Perché in particolare crescono i grandi bianchi? C'è un motivo? C'è stata una qualche campagna specifica? Che cosa è successo? No, c'è stato il fatto che nel 2016 c'è stata una flessione del valore delle materie prime, quindi è diminuito il valore del ferro, è diminuito il valore del rame, e questo ha reso il mercato parallelo, diciamo, tutti quegli operatori che, come dicevo un attimo fa, intercettano circa 2/3 dei rifiuti elettrici elettronici, ha reso questi operatori meno interessati a mettere le mani sui RAEE. E quindi è cominciato a crescere la quantità di RAEE affidata al sistema ufficiale, quello di cui non fa parte. Ma questo mercato parallelo è illegale? O... No, la cosa curiosa è che questo mercato parallelo non è completamente illegale. Mi spiego un attimo meglio. La legge italiana dice che i soggetti che fanno la raccolta, quindi i negozianti e gli enti locali, possono dare i RAEE, cedere i RAEE, vendere i RAEE a chiunque, purché il soggetto che compra sia in possesso di un'autorizzazione al trattamento di questi rifiuti. Il problema è che le autorizzazioni in Italia sono rilasciate su base regionale o addirittura provinciale, con una certa disomogeneità di valutazione, e purtroppo ad oggi soggetti autorizzati al trattamento dei RAEE sono anche soggetti che di mestiere non fanno esattamente questo, ma che di mestiere, diciamo, si avvicinano, perdoni l'espressione, un po' di più ai rottamai, quindi soggetti che si occupano di gestione di rifiuti e di rottami metallici, ferrosi e non ferrosi, ma che invece non hanno la capacità e non rispettano gli standard qualitativi necessari per la gestione dei rifiuti elettrici e elettronici. Quindi Sì. Fa fatica a fermare questo mercato parallelo, visto che dal punto di vista formale è pure legale. Oh, tra l'altro anche una questione proprio di materiali pregiati che sono contenuti all'interno di alcuni RAE, no? Quindi che è molto meglio recuperare che andare a riprendere dalle miniere da qualche parte nel mondo, no? Questo è il motivo per cui varrebbe la pena di intercettare di più di quanto oggi l'Italia riesce a intercettare, varrebbe la pena di potenziare, migliorare, far crescere la raccolta differenziata, ed è anche il motivo per cui noi abbiamo cominciato a fare qualche esperimento di raccolta, come un esperimento che stiamo facendo adesso a Milano con Coop, perché crediamo che se non si riesce ad andare più vicino al cittadino, più vicino al consumatore, con le occasioni di raccolta, difficilmente si incrementerà la raccolta differenziata dei RAE. Bisogna fare in modo che il cittadino abbia in prossimità, o più ancora che in prossimità della sua casa, nei luoghi dove abitualmente si reca, abbia la possibilità di disfarsi di queste apparecchiature elettriche elettroniche. Dunque abbiamo pensato con Coop di installare due contenitori in due supermercati milanesi, uno in zona Bonola e l'altro in zona Palmanova. I risultati sono positivi. Infatti vedevo che i numeri sono confortanti, e questo dimostra che appunto se c'è il contenitore vicino, la gente poi dopo porta il suo rifiuto. Certo, funziona, andremo avanti fino a dicembre con questa sperimentazione, e poi chissà che magari l'anno prossimo si possa estendere su scala più ampia. Tenga presente che questo è un obbligo di legge, cioè i negozianti di apparecchiature elettriche e elettroniche sono obbligati al ritiro 1-0, vale a dire anche quando il consumatore non compra nulla di nuovo, il consumatore ha diritto di conferire gratuitamente il piccolo RAE, la piccola apparecchiatura elettrica elettronica al negoziante. Purtroppo questo diritto non è ancora tanto conosciuto, purtroppo non è ancora tanto utilizzato, ma noi crediamo che sia davvero l'unica modalità con cui si riesca a fare una raccolta differenziata di piccoli RAE, che altrimenti finiscono nel sacco nero, e in quel caso perdiamo completamente la possibilità di riciclare le materie prime e seconde. E con questa intervista a Giorgio Arienti ci dobbiamo fermare per qualche istante, ci ritroviamo tra pochissimo. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, ancora ben ritrovati da Laura Bettini, e proseguiamo parlando ancora di studi sui rifiuti. Questa volta parliamo di raccolta differenziata dell'organico, e questo perché sono stati presentati i risultati di varie analisi finalizzate a sostenere e promuovere la migliore gestione ambientale degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Una serie di analisi che erano state previste nell'accordo di programma del 2015 tra Asso Bioplastiche, Corepla, CONAI e CIC. Con Alessandro Canovai, che è il presidente del CIC, ovvero il Consorzio Italiano Compostatori, vediamo intanto di chiarire un po' come vanno le cose nel settore della raccolta dell'organico. Il settore è cresciuto a colpi di quasi il 10% l'anno, a testimonianza poi che il cittadino, quando lo mette in condizione di fare la raccolta differenziata, la fa. Questo ha però dei risvolti importanti, di cui peraltro noi da un paio di anni, anzi tre, stiamo allertando chi è preposto alla pianificazione degli investimenti, perché il sistema impiantistico italiano è vicino alla saturazione, come peraltro in altri settori mi risulta, non solo l'impiantistica della frazione organica, cioè questa esplosione, possiamo così dire, o perlomeno crescente tendenza dei materiali raccolti per via differenziata, trova un sistema industriale che potrebbe non avere la capacità di assorbirlo tutto. Ecco, quindi da qui al 2020 la frazione organica noi pensiamo cresca di altri 2 milioni di tonnellate che non trovano attualmente possibilità di allocazione sul sistema impiantistico nazionale. Ed ora veniamo ai risultati di uno di questi studi che sono stati fatti nell'ambito dell'accordo di programma di cui dicevamo prima. Quindi diamo di nuovo la parola a Canovai. Questo studio è stato molto importante perché le finalità sono state essenzialmente due. Vedere di tutti i materiali che costituiscono imballaggio presenti nel mondo del compostaggio, la cui origine ben la si capisce. Una è il sacchetto con cui il cittadino fa la raccolta e l'altro è costituito dai materiali che il cittadino mette dentro questo sacchetto di frazione organica, di umido, vederne la composizione con un particolare focus sui materiali compostabili, quindi quelli per noi, tra virgolette, buoni, e i materiali non compostabili. Quindi è emerso che, diciamo, il primo dato importante è stato che la frazione organica è pura al 95%, quindi il peso di questo mondo di imballaggio pesa 5 punti percentuali. Mm. Da un certo punto di vista è puro, ma non è sufficiente, perché andando bene a analizzare la composizione, appunto, di questi imballaggi, risulta che circa il 56% sono costituiti da materiali compostabili, quindi friendly, potremmo dire, con le nostre filiere, ma c'è un 43% che accompagna il rifiuto organico in ingresso ai nostri impianti di plastiche non compostabili, potremmo dire tradizionali. Come valore assoluto è un numero molto alto, anche perché per togliere queste plastiche non compostabili dai nostri impianti servono tecnologie, servono sezioni di raffinazione che non hanno, diciamo, la capacità di togliere soltanto la plastica stechiometricamente, ma c'è un effetto trascinamento per cui quando si va a raffinare il materiale per togliere la plastica ci sa anche una perdita, diciamo, di resa, ecco, del compost vero, un po' di spreco che sinceramente vorremmo evitare. Il tutto poi, questo materiale plastico che viene estratto deve essere smaltito e quindi costituisce un costo che ad oggi grava sul sistema del compostaggio. Senta, ma la gente usa questi sacchetti non biodegradabili perché non sa che deve usare quelli biodegradabili o perché crede di usarli e questi sono finti biodegradabili, perché ci sono anche quelli in commercio? Esatto. I motivi sono sicuramente la comunicazione, l'altro sono spesso nei vari territori questo chiarimento non viene fatto dal gestore, sia esso pubblico o privato, per cui il cittadino oggettivamente pensa che possa fare la raccolta col sacchetto compostabile. Sì, con un sacchetto quale che sia. Un sacchetto qualunque sia, anche la carta. Ci sono dei comuni che usano la carta, va benissimo perché anch'essa è compostabile. Il terzo è che ci sono, e questo è più difficile da eradicare, sono dei sacchetti falsamente spacciati per compostabile. Questo configura un reato che si chiama truffa per chi lo compie. E non sono pochi casi nel nostro paese, i tre effetti sommati hanno generato questo numero che diciamo oggi, a valle di questo bello studio, possiamo certificare ed è un punto di partenza per il futuro. Ecco, se questo è il punto di vista dei compostatori, che cosa ne pensa il Consorzio per il recupero delle plastiche dei risultati delle analisi? Il Corepla è presieduto da Antonello Ciotti. Le percentuali in valore assoluto sono i numeri in valore assoluto sono molto diversi tra loro, perché parliamo della plastica normale, di un immesso al consumo di quasi 2 milioni di tonnellate, mentre invece della bioplastica, che è una materia ancora nuova, siamo intorno alle 50.000 tonnellate, per cui c'è un rapporto molto grande tra una e l'altra. Ma però, quanto danno fa una bioplastica inserita nel ciclo del recupero delle plastiche? Fa danno nel senso che, non essendo riciclabile, deve essere smaltita e va a termovalorizzazione, per cui perde tutto il suo beneficio. E lo stesso, una plastica normale nel compostaggio non si degrada, per cui in qualche modo se fosse conferita in quantitativi molto grandi andrebbe in qualche modo a saturare il compostaggio e a evitare che possano partire i processi di degradazione. Allora, speriamo che i cittadini rapidamente imparino a distinguere l'una dall'altra. In teoria non è difficile. Esattamente, ma sa, il problema del comportamento del cittadino è fondamentale in ogni tipo di raccolta differenziata. Noi Nella raccolta differenziata della plastica, tenga presente che in Italia noi facciamo raccolta differenziata degli imballaggi, notiamo che aumenta il quantitativo di frazione estranea. Cioè, le do dei numeri così ci capiamo: dei 2 milioni di tonnellate immesse ogni anno in Italia, il 50%, più di un milione, che è una cifra molto considerevole se ci compariamo anche con gli altri paesi europei, transita attraverso il circuito Coreplan. Passiamo da regioni molto virtuose come il Veneto a 25 chili a cittadino per anno, alla media italiana intorno ai 15, alcune regioni che faticano un po' come la Sicilia, che fa da fanalino di coda con poco sopra i 4 chili. Però cosa succede? La notizia positiva di quest'anno è che la crescita aumenta di quasi il 10%, per cui è un successo. Però spesso notiamo che il cittadino si fa prendere un po' la mano, invece di conferire solo gli imballaggi, nel contenitore della plastica porta tutto ciò che è plastica, per cui troviamo i giocattoli, troviamo le vecchie scarpe da ginnastica, che sono tutti prodotti che vanno in qualche modo a interferire con quello che è il nostro ciclo di selezione delle varie materie plastiche di recupero di queste materie prime seconde. E quelli dove dovrebbero essere portati? Beh, quelli attualmente vanno conferiti nella raccolta indifferenziata. Mi piace dare questa definizione della gestione dei rifiuti. È come avere una sedia con 4 gambe. Queste gambe sono il compostaggio per l'umido, per cui si recupera un fertilizzante, il riciclo delle materie plastiche, per cui si recuperano nuove materie plastiche, e la termovalorizzazione, per cui si recupera energia elettrica, e poi purtroppo, se non c'è altre alternative, la discarica. Ecco, di questa sedia noi possiamo eliminare una gamba, e noi vorremmo eliminare la discarica, però non possiamo eliminarne due, per cui ecco, abbiamo bisogno che il cittadino si comporti bene e ci aiuti a fare il nostro lavoro. E sull'immagine della sedia chiudiamo. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon pomeriggio.